sport e motori con Massimo Di Scienza. 33 minuti dopo le 16, buon pomeriggio amici ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, bentrovati a un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Saremo insieme fino alle 17 per parlare soprattutto, ma direi anche esclusivamente, perché insomma oggi non può che essere la puntata centrata su questo. Dicevamo, per parlare del trionfo di Fernando Alonso al Gran Premio di Yeongam in Corea, quinta vittoria stagionale, e Fernando Alonso che balza in testa alla classifica del mondiale. Alonso che ha vinto davanti ad Hamilton e a Massa in classifica piloti. Alonso 231 punti, Mark Webber 220, Lewis Hamilton 210, Sebastian Vettel 206. Della gara sapete sicuramente tutto, sapete dell'errore del testacoda di Mark Webber quando era secondo, aveva lasciato la seconda posizione ad Alonso, e poi sapete anche del motore che ha tradito Sebastian Vettel ad una manciata di giri dalla conclusione. Insomma, una Ferrari d'acciaio sotto la pioggia di Yeongam, Ferrari che è arrivata al traguardo dopo un gran premio maratona chiuso al limite delle tre ore, considerando appunto anche un'ora di stop in mezzo. Un Alonso che balza in testa alla classifica, a questo punto può essere considerato a due gran premi dalla fine favorito per la vittoria finale. Subito le nostre coordinate per raggiungerci: il numero verde l'800 24 00 24, il numero per i vostri sms 349 238 6666. E oggi ovviamente la domanda non può che essere questa: è la svolta decisiva del mondiale? Insomma, Alonso vincerà il titolo iridato, oppure pensate che Webber, Vettel, ma a questo punto anche Hamilton, possono essere considerati ancora in corsa? 800 24 00 24 per ascoltare in diretta le vostre opinioni. Per ascoltare invece due esperti non possiamo che rivolgerci a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Buona domenica Carlo. Ciao, buona domenica a tutti. Grande successo questa mattina su Facebook, la tua cronaca alternativa, poi ne parliamo. E poi ritroviamo, ed è un grandissimo piacere, lo saluto con particolare affetto, Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore. Buona domenica a tutti. Mi scuso con te, direttore, ma anche con gli ascoltatori della qualità delle mie corde vocali. Evidentemente la pioggia di Yeongam ha colpito a distanza. Io mi sono fidato di una pillolina che mi ha dato il collega Carlo Genta. Vediamo se riuscirà ad arrivare fino alla fine della trasmissione la mia voce. Partiamo subito da Carlo Cavicchi, direttore. Insomma, gran premio estenuante, una vera e propria maratona, sia per chi l'ha visto, sia immaginiamo anche per chi l'ha corso. Un Alonso che alla fine ha potuto festeggiare la quinta vittoria stagionale. Insomma, un primo commento sulla gara: che gara è stata secondo te? Beh, una gara molto appassionante, stravinta, bisogna dire la verità, da Alonso e dalla Ferrari. Dalla Ferrari perché oggi è parsa nettamente la macchina più forte, ma non tanto per Alonso che è fortissimo di suo, ma per come a tratti è andato anche Massa, quindi a riprova che la macchina è andata molto bene. Benino gli avversari di Alonso, se intendiamo la Red Bull come rendimento in pista, ma non formidabili come al solito, non erano schiacciasassi come in altre occasioni, e poi dopo ci hanno messo del loro, sia un motore andato nel caso di Vettel che nell'errore di Webber. Però diciamo la gara, la Ferrari è stata perfetta, sia perfetta nel pilota migliore in questo momento del lotto che sta sembrando Alonso, sia proprio di squadra, perché andava molto bene la macchina. Male secondo me andava oggi malissimo la McLaren, al di là dell'erroraccio che io considero tale, quello di Hamilton, con cui oggi si è giocato il campionato, perché nel momento che ha avuto la fortuna di uscire dal cambio gomme davanti ad Alonso non può buttarlo via alla ripartenza di un pilota che deve vincere il mondiale. Carlo Vanzini, come hai commentato su Facebook la gara di oggi? Qual è la tua idea di gara? Che gara è stata? Stamattina ci siamo divertiti perché ero qui a Sky a seguire il Gran Premio, ero al computer, ho detto commentiamola insieme, e poi abbiamo avuto un trionfo perché più di 1000 messaggi la mattina, insomma mi chiedo, insomma, tutti collegati col computer per seguire la Formula 1, per avere il monitor dei tempi, tutti pronti e carichi. E al di là di questo, se mi permetti una battuta, e lo sto ripetendo anche a Sport24, Alonso fatevelo amico. Assolutamente, perché ieri al termine delle qualifiche ha detto, vicino ai due della Red Bull in conferenza stampa, qualcuno dei cinque in lotta per il mondiale non finirà la gara, e io non devo essere tra questi. Diciamo che più profetico di così, insomma, non poteva essere Fernando Alonso. Al di là di questo, direi che i tanti episodi che ci sono stati nel corso della stagione, abbiamo spesso parlato di un Webber fortunato, beh, adesso sono a favore di Fernando Alonso. C'è stato un periodo durante il quale lo stesso Stefano Domenicali diceva: speriamo che giri un po' la ruota anche nel nostro senso. Beh, adesso la ruota sta girando, perché c'è stato il ritiro di Webber, errore, c'è stato il problema con il motore di Sebastian Vettel e c'è stato, come diceva il direttore, anche l'errore di Lewis Hamilton, che ha riceduto la posizione, anche se poi alla fine con le gomme non ne aveva più, quindi probabilmente Hamilton non riusciva comunque a gestire la posizione davanti a Fernando Alonso. Però oggi è stato tutto perfetto per Fernando Alonso, quindi è in una situazione ottima. E non dimentichiamo, anzi diciamolo subito perché può essere utile nei nostri commenti, che in Brasile lui ha già il match point per la stagione per diventare campione del mondo, e vengono i brividi a pensare dove era Alonso dopo la Gran Bretagna o prima del Gran Premio di Monza dopo il Belgio. 800 24 00 24 per raggiungerci in diretta, sms al 349 238 6666. La domanda che stiamo ponendo, direttore, se è quella di Youngham è la svolta decisiva del mondiale, se questo mondiale Alonso l'ha già vinto oppure no, tu cosa ne pensi? Ma io la parola l'ha già vinto, visto come ha portato male. Io avevo detto a un certo punto che il mondiale era un gioco a due tra Webber e Hamilton prima di Monza, quindi questo discorso qui credo che porti male, non lo farei in questi termini. Diciamo che ci ha messo veramente una bella ipoteca, anche perché in mano ce l'ha un pilota che le cui qualità sono riconosciute da tutti, l'esperienza, la capacità di dare il colpo quando serve, e in più perché in questo momento ha una Ferrari, a mio parere, in crescita, cioè, rispetto alle altre squadre, è una di quelle messe meglio. Lucio da Vigevano via sms al 349 238 6666. Secondo me, se non vince, se non si rompe la macchina, vince Alonso. Mi sembra il più freddo a gestire la situazione. Carlo Vanzini, è davvero così? Alonso ha qualcosa di più anche dal punto di vista, come dire, dello schema psicologico da seguire in pista rispetto agli altri? Beh, già solo la battuta che ha fatto ieri, quella di qualcuno non finirà la gara e non devo essere io, beh, devi essere molto freddo per fare una battuta così, perché poi non finisci la gara, te la sei tirata da solo con un'affermazione di questo genere. Alonso in queste situazioni è molto molto bravo nel caricare la pressione sugli avversari, nel spostare tutta la tensione sugli altri. È uno che ha le spalle larghe, è uno che si è giocato i titoli mondiali, non dimentichiamo che se l'è giocato uno con Raikkonen, uno con Michael Schumacher, quelli che ha vinto, è uno che ha una grande esperienza, di fronte a dei piloti, uno Mark Webber che è forse l'unica chance della sua vita, della sua carriera, e oggi ha fatto un errore, diciamolo, banale, perché insomma sbagliare così senza pressione da dietro, senza davanti Vettel che ormai stava andando via, è proprio un errore stupido, banale, e ne ha fatti tanti di errori anche gli altri nel corso di questa stagione. A Hamilton che soffre tantissimo Alonso, a Vettel che bisogna capire cosa fa, cosa non fa, quando si ritroverà sotto pressione, ma soprattutto il discorso è legato alla Red Bull. Adesso Vettel ha 25 punti di Alonso, cosa farà la Red Bull? Ancora gara libera ai due piloti? O a questo punto Vettel aiuta Webber? Vettel primo, secondo Webber in Brasile. Cosa fanno? Cede la posizione, Vettel o no? Chiaro, dipende dalla posizione di Alonso, ma bisogna vedere come prepareranno a questo punto anche quelli della Red Bull il Brasile. Ho un paio di dati poi interessanti che ti do. Dammeli subito. Guarda, ti dico, Vettel quest'anno ha fatto, compreso il Gran Premio di oggi, 1513 km al comando. Webber 1436, ossia 315 Webber giri e 273 Vettel. Alonso ha fatto 660 km al comando. Però quelli giusti. Un terzo. Questi numeri, è vero che poi uno sta al comando dall'inizio alla fine e in un attimo fai tanti chilometri, certo, al comando, ma questi numeri ci danno l'idea di quanto sia stata superiore la Red Bull e di quanto sia impossibile che non siano già campioni del mondo. Non è possibile che con questi numeri in mano la Red Bull, che probabilmente vincerà i costruttori, non sia già campione anche nei piloti. 14 pole position su 17, qui vado a memoria però, ma non credo di sbagliare. Come mai, direttore? questa Red Bull, poi domina in prova, guida per tanti giri. La Red Bull è il suo limite, l'abbia chiaro e evidente. Se all'inizio di campionato io ricordo che avevo vaticinato, ovviamente non prendendoci mai, come si dice, il mondiale costruttori alla McLaren e il mondiale piloti ad Alonso. Non la vedo ancora così lontana, anche se questa è mia previsione, anche se la McLaren ultimamente mi sembra un po' in difficoltà, non me l'aspettavo. Oggi la McLaren era in evidente difficoltà, al di là della bravura di Hamilton e dell'errore di Hamilton, ma della bravura di Hamilton comunque per cercare di essere competitivo con una macchina che era palesemente non lo era. La Red Bull si sa, la Red Bull era forte anche l'anno scorso, la Red Bull è una squadra che non fa nessun gioco intelligente, non dico di squadra, ma comunque è schierata nettamente verso un solo pilota, in questo caso non importa dove sia. La stessa furbata di Monza oggi, in cui abilmente, non cambiando le gomme, è riuscito Vettel ad arrivare davanti e quindi togliere punti a Webber, oggi la pagano cara, ma io credo che fino alla fine loro giocheranno per Vettel, e questo per un volpone come Alonso è veramente marmellata sul pane. Da mangiare e da spalmare. Ci fermiamo per qualche istante, adesso gli aggiornamenti sul traffico, torniamo insieme perché sono già tanti i messaggi al 349-238-6666 e ovviamente potete continuare a chiamarci all'800-24-0024. Sport e motori. Il dopo Gran Premio di Corea ovviamente monopolizzato dalla vittoria di Alonso, che balza in testa alla classifica del mondiale. I nostri e soprattutto i vostri commenti via sms al 349-238-6666 o all'800-24-0024. Celestino dalla provincia di Lucca. Buona domenica Celestino, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a lei e auguri per la voce, che si rimette a pezzi. Speriamo, grazie alle caramelline di Carlo Gento, ma fino a questo momento non mi sembra che abbiano giovato granché, però vabbè, se lo dice lui. Esatto. Prego, prego. Della Ferrari, come tutti noi speravamo. Ma volevo sottolineare due cose. Un ottimo risultato per Vitantonio Liuzzi. Verissimo. E Parichello, che ancora è arrivato in una posizione molto buona, quindi non era, come molti dicevano, cattiveria di qualche anno fa, un pilota cotto. Forse non aveva più le motivazioni, ora anche con una macchina magari non all'altezza della Ferrari riesce a fare buoni risultati. Volevo rivalutare un po' questa figura che forse si è persa e fare veramente un in bocca al lupo a Vitantonio Liuzzi, che trovi una guida più importante per la prossima stagione. E noi giriamo queste considerazioni, per le quali ringraziamo ovviamente Celestino, a Carlo Cavicchi, direttore. Insomma, un Liuzzi che chiude la stagione in crescendo e un Barrichello che ancora una volta dimostra di poterci stare su questi livelli ancora in maniera pienamente legittima. Noi purtroppo dedichiamo sempre poca attenzione a quello che avviene dietro, perché a parte quest'anno che è un anno talmente formidabile con talmente tanti protagonisti da avanti che è quasi inevitabile, però devo dire dietro abbiamo visto diverse cose buone. Io oggi ho visto anche, oltre a bravissimo Liuzzi ovviamente, e a Barrichello direi anche Hülkenberg, oggi ha fatto una bellissima gara a tratti, ha fatto vedere cose notevoli, anche Heidfeld, che poi comunque si rivela sempre un pilota di sostanza, lui va sempre a punti, non si vede mai, ma poi al dunque è uno che c'è sempre, quindi il dietro c'è. Oggi no. E oggi, se dobbiamo ricordare qualcuno, ma sì, facciamolo oggi, diciamo pure che anche Schumacher ha fatto una bella gara, perché ne abbiamo dette tante in tutta la stagione. Oggi mi sembra che non ha fatto nessun errore, anche un bellissimo sorpasso. Oggi questo è lo Schumacher che abbiamo, ma oggi è uno Schumacher veramente dignitoso. Carlo Vanzini, c'è futuro in Formula 1 per questo Liuzzi secondo te? Ma secondo me, diceva Celestino che vorrebbe un Liuzzi su un'altra macchina, secondo me se sta sulla Force India fa bene, visto che l'anno prossimo si correrà in India, e credo quindi che la Force India avrà dei mezzi, non dimentichiamo che ha motore sempre Mercedes, però riuscirà ed ha sicuramente dei mezzi per diventare una scuderia più competitiva. Certo non è a livello degli altri, però anche la Red Bull è venuta su quasi all'improvviso. Sottolineerei ancora la gara di Kamui Kobayashi Kobayashi, però riporterei anche l'attenzione su quella che è il tema della giornata, cioè che questa vittoria straordinaria, certo, di Fernando Alonso, proprio nel weekend durante il quale lui ha dichiarato che questa è la stagione più bella da quando è in Formula 1, che credo sia un attestato di stima d'amore nei confronti della Ferrari incredibile, anche se io metto sempre un po' le mani avanti, lui è un bel para. Sì, abbiamo capito. Ecco, ci siamo capiti. Per dire una situazione Red Bull potrebbe ancora tenere aperta la sfida tra i suoi piloti fino ad Abu Dhabi, nel caso in cui fossero nettamente più forti in Brasile e ad Abu Dhabi, dovessero fare due doppiette, e ti spiego perché. Vincente Vettel in Brasile con davanti a Webber e, migliore delle ipotesi, Alonso terzo, Webber sarebbe a 8 punti da Alonso e Vettel si porterebbe a 7 punti da Webber. Ad Abu Dhabi, mantenendo una doppietta così, vincerebbe Alonso, ma con Vettel che va a cedere la posizione a Webber, vincerebbe Webber. Quindi, volendo, potrebbero ancora tenere aperta la gara ai due piloti, e volendo potrebbero avere anche ragione. Ma tu pensa alla situazione in Brasile: Vettel davanti, Webber secondo e terzo Alonso, Vettel cedendo la posizione porterebbe Webber a un punto da Alonso. Quindi ci trasformiamo in calciofili: due punte o una punta il trequartista? È molto interessante questo quesito, sentiamo cosa ne pensa il direttore Cavicchi. No, ma direi che una sintesi è talmente chiara, io non credo a tutti questi calcoli perfetti che lì li faccia qualcuno, non li fa Helmut Marko, che è il padrone comunque del team di fatto, e quindi tutto il resto diventano cose bellissime, estremamente intelligenti, ma lì penso che loro nel dubbio danno sempre un vantaggio a Vettel. A Vettel. Ma via tutti i podori, ci scrivono via SMS, è evidente che i piloti della Red Bull sono dei bidoni, ma insomma non sarei così drastico, nonostante quello che è accaduto oggi, però i numeri che ha sciorinato Carlo Vanzini prima sono chiari, parlano comunque di una stagione di altissimo livello. Non serve a niente avere un'aerodinamica perfetta se poi il motore non è buono, questo vorrei dire alla Red Bull, forza Ferrari. Direttore Cavicchi, facendo anche un bilancio se vogliamo di quello che si è visto in stagione, però tutto si può dire tranne che il motore della Red Bull, al di là del tradimento di oggi, non sia stato all'altezza della situazione. Forse saranno altri i motivi per i quali alla fine forse la Red Bull non vincerà mondiale. Sì, tanti, devo dire, il motore chiaramente non era il motore favorito in partenza, si è comportato anche bene in certi momenti, però dire bidoni mi sembra veramente una cosa, un giudizio volgare, perché oggi Vettel in fondo più che fare la pole e più che stare in testa tutto il Gran Premio finché non gli si rompe la macchina, onestamente questo non se lo merita, e lo stesso Webber ha fatto una stagione comunque con i fiocchi, cioè forse i bidoni sono da altre parti, sono ma questo non mi sembra onesto. Sono curioso di sapere cosa scrivevano i lettori di Facebook, gli amici di Facebook a Carlo Vanzini questa mattina, qual era il clima durante la gara e poi alla fine, Carlo? No, devo dire che è stato molto piacevole, perché evidentemente siamo riusciti a mettere insieme un po' di appassionati, perché non c'era tifo becero anche quando si è ritirato Webber, sai che in genere si scatenano in commenti molto pesanti, invece sì, devo dire grande attenzione. Cioè, guarda, in Italia ci sono tanti tifosi appassionati di Formula 1 che conoscono la materia meglio di noi. Non c'è dubbio. E a volte è difficile anche dialogare, perché poi alla fine devi dare ragione, però devo dire che c'è un'attenzione, una passione nei confronti dei motori che è altissima, e sono d'accordo col direttore che i piloti bidoni non ci sono, insomma andare a quelle velocità, andare con quelle macchine bisogna sempre essere per me degli eroi. Se si vuole si può discutere sul fatto che pochi anni fa, non tanti anni fa, anche in condizioni simili a quelle di oggi, si correva, con la pioggia si partiva anche senza safety car, una volta i piloti erano consapevoli che forse qualcuno di loro la gara dopo non ci sarebbe stato, oggi invece si fa tutto per la sicurezza, per carità è giusto che sia così, però magari con delle gomme più adatte, con delle gomme un po' che magari sono state anche chieste alla Pirelli, la gomma per Monsone, visto che si andrà anche in India, ormai siamo quasi sempre di lì a gareggiare, forse bisognerebbe riportare un po' più di di coraggio in questa Formula 1 e non aspettare la safety car, mandare i piloti dal preside quando non appena si toccano. Insomma, si è persa un po' quella Formula 1 eroica, ma non è solo un discorso a Formula 1, tutti quegli sport con la componente rischio molto alta si è diciamo abbassata questa componente, giustamente, però viene un po' meno quella che era l'essenza di questi sport. Direttore Cavicchi, oggi abbiamo, al di là della vittoria di Alonso, però abbiamo assistito anche, insomma, non possiamo negarlo, ad alcune situazioni paradossali, ad esempio le pozzanghere d'acqua che restavano con una situazione di pioggia non eccessivamente complicata, pozzanghere d'acqua che restavano lì, olio che saliva su, schiuma sul tracciato, certo. Ricordiamo che però, l'asfalto è stato posto soltanto 10 giorni fa. Giusto. Sì. Giustissimo, però mi collego al discorso di Vanzini, sì. Giustissimo, non facciamo gli schizzinosi oggi, la Formula 1 in vita sua ha corso nei parcheggi di un albergo, come è stato a Las Vegas, ha corso su strade impossibili, queste cose sono sempre state, solo che una volta era normale arrangiarsi i piloti che avessero un palo o un albero, o che andavano, adesso come c'è una pozzanghera o qualcosa si limita. La Corea è arrivata chiaramente lunga per fare un gran premio, però era più sicuro come condizioni e comunque meglio perché le segnalazioni sono migliorate, perché tutto si è fatto meglio di come si è corso mille volte anche solo 4-5 anni fa, eh. Quindi non perdiamo di vista questo, e vorrei aggiungere che dire che mi ricollego al discorso dei bidoni, perché non mi piace che la gente, qualcuno possa pensare questo. Alonso, se vince questo mondiale, o chi lo vincerà, ma diciamo se lo vince Alonso, ha vinto un mondiale formidabile con il miglior parco partenti tutti insieme della storia della Formula 1. Se perdiamo di vista questo, tutto il resto sono cose che ce le raccontiamo tra di noi. La Formula 1, un livello così alto e di così competitivo, non l'ha avuto mai nella sua storia. E siamo assolutamente d'accordo. Siamo in conclusione, un paio di minuti ancora per noi, e ovviamente non possiamo che proiettare il nostro sguardo adesso dall'altra parte del mondo, in Brasile, per il prossimo Gran Premio fra 14 giorni. Carlo Vanzini, tu hai fatto un po' un quadro di quella che è la situazione, di quella che può essere l'evoluzione anche e soprattutto per quanto riguarda le strategie di squadra. Volendo però fare così un piccolo pronostico, conterà dal punto di vista psicologico, come dire, il vento della Corea, riuscirà a tirare fino in Brasile, oppure ti aspetti una gara totalmente diversa? Ma guarda, Fernando Alonso si presenterà con il match point sulla racchetta, quindi se non gli viene il braccino, è cosa che non credo, può giocarselo, comunque mettersi poi nelle condizioni di chiudere il gioco ad Abu Dhabi. Di certo tutta la pressione adesso è sui due piloti da Red Bull e relativamente su Lewis Hamilton. Beh, Lewis Hamilton può in questo quadro, in questo scenario, essere pericoloso, perché fondamentalmente lui non ha più niente da perdere, quindi si giocherà tutte le sue carte. Prestazioni delle macchine: l'anno scorso ha vinto Webber in Brasile, ha vinto Vettel ad Abu Dhabi, quindi sulla carta Red Bull, però fino all'anno precedente in Brasile ha sempre dominato la Ferrari, quindi credo che anche lì dobbiamo aspettare le prove del venerdì, ma saranno molto molto vicini tutte e tre le scuderie. Se mi permetti, poi chiudo e vi lascio. Vai. MVP di giornata, sai che lo facciamo un po' sempre, certo. Quindi il premio, al di là di Alonso che ha vinto, lo darei a Hamilton, proprio riallacciandomi al fatto del correre in condizioni al limite, perché mentre Webber, Vettel davanti dicevano non si riesce a correre, c'è troppa acqua, ma ovviamente era una strategia, perché gara interrotta o gara sospesa per loro voleva dire metà dei punti, andava bene così, Hamilton continuava via radio: allora partiamo o no? Si può correre? Andiamo. Avevano le gomme da bagnato estremo, adesso rientro e metto le intermedie, sì, sì. Andiamo o no? Quindi MVP per questo. Esatto, beh, il prototipo del pilota così arrembante che piace a noi, che piace sicuramente a Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Grazie direttore, buon lavoro per il suo giornale, ci risentiamo domenica prossima, se vorrà. Molto siamo sempre bene. Qui. Ciao, grazie. Buona domenica. Di nuovo. Buona domenica, Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, ti seguiamo anche su Sky Sport 24. Ciao Carlo. Ciao, grazie mille a tutti. Un saluto anche a Giorgio De Luca, un ringraziamento, così come a Roberto Scaltritti in regia. Scusate di nuovo per la qualità delle corde vocali, speriamo di riprenderci in settimana. La caramellina di Carlo Genta non ha avuto alcun successo. Noi ci risentiamo tra 7 giorni per un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Ciao. Sport e Motori.